Alpini della Iulia. Testo di Chino Ermacora. Adattamento musicale di Ezio Vittorio. Nei focolari del Veneto, in queste notti d'inverno, e il freddo ne forse il richiamo occasionale, si parla della Iulia anche se la guerra s'allontana nel tempo, anche se i dispersi si rifugiano nell'angolo della dimenticanza. Solamente le madri e le spose li sentono nel cuore, brucianti ferite che non saranno rimarginate. Intorno alla fiamma crepitante, qualche vecchio dell'ottavo, del nono Alpini, del terzo artiglieria da montagna, dei reggimenti cioè della disciolta divisione Iulia, reclutati tra il Piave e l'Isonzo, tra il Carso e il Grappa, nel territorio stesso che leva i boccia della ricostituita brigata Iulia, la quale, nomine tanto firmissima, conserva con le bandiere lo spirito delle penne mozze che ne impreziosirono i drappi con 6 medaglie d'oro al valor militare. Gente di montagna forma quei reggimenti, gente che innalza religione e il sentimento del dovere, che sdegna ogni retorica. Olà o rompi! È il motto dell'ottavo, formato per 3/4 dai friulani, per 1/4 dagli abruzzesi. Ascoltiamo i reduci che videro le acque della Vojussa e del Don. Il nostro battaglione, il Val Tagliamento, fu trasportato in volo a Tirana nel novembre 1941. Andava male in Grecia per noi. Caduto poco prima il colonnello Tavoni, comandante del nono, alla testa dei suoi alpini decimati. Molti ufficiali e soldati non avevano ripassato il ponte di Perati, il ponte ispiratore, come quello di Bassano, di una canzone ritmata sul medesimo motivo da marcia funebre. Anche il comandante del Val Tagliamento non doveva ripassare più il ponte fatale. E non lo ripassarono il tenente colonnello De Laurentiis, i tenenti di Prampero e Ratto, i sottotenenti Castellucci, Caufin, Miani, Scoccimarro, il sergente maggiore Giavitto, medaglie d'oro alla memoria, e tanti, tanti altri non lo ripassarono. E non sono tornati i 700 del battaglione Gemona che rientravano in Italia a bordo della Galilea, altro grave lutto della Iulia, inabissati nell'Ionio per il siluramento della nave. Aspetto di pastore. Cuore di titano, il tenente colonnello Umberto Tibinella, medaglia d'oro alla memoria. Cresciuto tra i dirupi e i vigneti della Valtellina, considerava sua patria il Friuli, e non perché friulana la sposa che gli diede 2 creature e friulani gli amici con i quali cioncava il buon vino del paese. Qui, e non lo confessava neppure a se stesso, le sue Giulie, col nevoso Canin e il fiavesco Montasio, col piramidale tricorno e il leggendario Rombon, i suoi amori segreti dei quali era addirittura geloso. Un giorno gli fu rubato il sacco da montagna sotto la tenda Conteneva le cose più necessarie, un fiaschetto d'acqua vite e un panino imbottito. Il ladro, scoperto, fu trascinato davanti a lui da un tenente. Il comandante scattò, esasperato. Vergogna, un alpino! Attendo l'ordine per metterlo di vedetta. Osò l'ufficiale, ligio alla legge di guerra. Tini, era il diminutivo familiare agli amici, si grattò il pizzo, sentenziò. Mandalo indietro. Né combatta né muoia. Se colpevole, lo punirà Dio. Non diversi i gregari della Iulia. Finito un bombardamento di mortai sul fronte greco, il cappellano di non so più qual battaglione fu chiamato d'urgenza per assistere un alpino moribondo. Il ferito giaceva supino, il capo sopra un sasso sporgente. Come scorse il sacerdote, lo apostrofò. Boh, ed un cappellan, sei tu arrivato. Mi ha supportato un fias di vin. E reclinò la testa per sempre. Tipi che non escono dalla memoria di chi li ha veduti morire. Come non escono i muli, attori e vittime nel corso del ripiegamento dell'Armir nella cornice del terribile inverno russo. Ecco a proposito una pagina del libro che Manlio Francesconi, tenente artigliere che fu per 4 anni prigioniero nell'URSS, ha recentemente affidato a un editore di Bologna. Il nostro era l'andare di chi non ha più la forza di pensare, di chi non ha più speranza. Umidi di neve, affamati, andavamo per non gelare. Chi si sdraiava sulla neve non si rialzava più, quel freddo gli penetrava nel cuore. I pochi muli rimasti non si rialzavano più, inchiodati dal ghiaccio che li intaccava dai garretti, bloccando loro le zampe. Muovevano solo la testa. Più d'uno era immobile con lo sguardo rivolto indietro e il collo teso in un ultimo prolungato sforzo per staccarsi dalla morsa implacabile che, complice la stanchezza, lo imprigionava. Davanti a noi, dietro a noi, intorno a noi, non c'era che neve. Neve fredda sulla quale il vento faceva correre il nevischio verso occidente. E la neve non era abbastanza dura per sorreggere il nostro peso. Affondavamo ogni passo fino al ginocchio. Come il nevischio, eravamo sospinti sulla distesa gelata. Avevamo camminato sulla neve per 400 chilometri, con una temperatura che raggiunse alle volte punte di 50 gradi sotto zero, con intervalli di giorni e giorni di digiuno assoluto, interrotto a volte da un tozzo di pane nero, da una manciata di semi di girasole, coperti di vestiti a brandelli induriti dal ghiaccio. La Iulia, sorella della Tridentina e della Cunense, è finita lassù. Fortunati coloro che risalutarono in Italia la primavera di quel tragico 1943. Fra essi, l'ufficiale che salvò la bandiera dell'Ottavo celandola sotto la giubba. I più erano rimasti assiderati nelle steppe gelate o dissanguati dalle ferite nelle caritatevoli isbe durante quella spaventosa avventura o spentisi nei campi di concentramento di fame e di malattie inesorabili. È a loro dedicata la elegia Stellutis Alpinis, che la voce del violino diffonde nel ricordo di tutti gli alpini caduti nell'adempimento del dovere. Quelle note avvolgano di una spirituale carezza i dispersi sui monti della Grecia e nelle pianure della Russia. Nei focolari del Veneto, in queste notti d'inverno, non sono dimenticati gli alpini che nel paradiso di Cantore sognano i monti e i fiumi sacri alla patria. Per loro il calvario della Iulia si è fatto epos, si è fatto canto. Canto sia pure di imprese sfortunate, ma che aureolano il sacrificio di una più chiara luce, di un'umanità più calda e toccante. Abbiamo trasmesso Alpini della Iulia, testo di Chino Ermacora, adattamento musicale di Ezio Vittorio. Hanno partecipato alla trasmissione Don Albino Perosa, Eligio Ciriani, il coro e la fanfara dell'VIII Reggimento Alpini.